Un'altra radio. Roma. È una radio che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Prossima fermata, un'altra radio Roma. Gira Stradella e fermala sulla frequenza di Nartra Radio Roma. Siamo arrivati e soprattutto sono arrivato io, DJ Gogot, direttamente nelle vostre cuffiette. Incominciamo questo primo podcast, perché il primo che avevo fatto già un po' di tempo fa era Podcast 0.0, un esperimento che speriamo sia riuscito. Continueremo adesso con il mio Podcast 0.1 a presentarvi artisti provenienti dall'area www.qwb.tv. Qui sentirete musica mai udita, mai veduta e che forse non la risentirete mai più. Chissà, dipende da voi, da quanto vi piacerà scoprirla ed ascoltarla. Dopo il piccolo pezzettino iniziale di Mr. XN chiamata Otro, continuiamo con le note di Mr. XN con la sua The Way Called Always, solo ed esclusivamente su Nartra Radio Roma, Roma, Roma, Roma. e lui era Mr. XN con i suoi ipnotici loops hip hop. E continuiamo così, sempre sulle stesse onde hip hop, con un altro gruppo, questa volta proveniente da Roma. Loro sono i Jungle Beat, e se volete riperire questa song la potete trovare sul loro sito www.junglabeat.it, dove potete anche avere il free download del vecchio album. Loro sono in giro adesso con un altro pezzo che si chiama Stato di Minaccia, che potremo sentire nei seguenti podcast, ma per ora loro sono i Jungle Beat e questo è Bon Voyage, perciò solo ed esclusivamente su un'altra radio. Roma. Scenari comici, viaggi tragici, allora credici, hai svoltato un 13, tempi ciclici, trip ludici, sudici, su di giri tiri e bam bam, abbiamo Fats e Jack nel set, Windows on the run, in ingangia farma, Dutra Bros come Binima, e ti risvegli con l'occhiaie come Sandokan. Del tuo flash sono pistole rose come Axel e Slash. Suono musica drogata solo per te, va da sé. Se ti sei perso non seguire me, nelle mani del mio flash, del mio flash. Ho pistole rose come Axel e Slash. È musica drogata solo per me, va da sé. Se mi perdo mica seguo il mio Bon Voyage. Se sa da fa se fa sul puncia, Jungle Beat trip un click e poggiala. Metto visioni sui miei suoni, baratto vibrazioni per allucinazioni, con i capoccioni ho disfunzioni cerebrali, psicosi, nevrosi, narcosi, sai e quali e quanti mali ancora da seppellire, e tante di quelle cose che non si possono manco dire. Uscire, esco fuori per un trip, qui fuori strada di una jeep, nel tuo clip vedo che mi volete tutti in careggiata. O è la droga o la mia musica è drogata, ciccio. Step 1, Jungle Pistache, mesdames et messieurs, Bon Voyage. ci spense l'altra radio rock. Come? Ci spense l'altra radio rock. Cosa dite? Non mi capisco. Come Mista Flea, direttamente dalla provincia di Napoli. Questo era il suo brano 27 marzo. Lui è un ragazzo che si diletta con i piatti ed ha altri due gruppi paralleli. Un gruppo che si chiama Joe Blow, un gruppo crossover, e un altro gruppo che si chiama Los Acanitos, a detta di lui un gruppo patetico. E adesso passiamo ad un altro artista, sempre proveniente dal sito www.qwb.tv. Lui si chiama Bunny Wailer, è di Benevento e vive da un anno a Londra. Per voi, i suoni provenienti dalla testa di Bunny Wailer. e lui era Bunny Wailer con il suo pezzo What, direttamente da Londra. Lasciamo da parte un attimo queste sonorità calorose tra dub e hip hop e passiamo a un suono un po' più sperimentale, un po' più freddo. Il nostro primo artista ad aprire le danze è Dodo 1970, più comunemente conosciuto come Dodò Veneziano. La sua attività professionale principale è quella di direttore della fotografia per il cinema e per le videoproduzioni, ma come dice lui, si libera dall'alfabeto dell'immagine e crea questi pezzi musicali che a noi piacciono molto, moltissimo. Ascoltate e commentate. Lui è Dodò Veneziano e questa è la sua studiato, testato, sperimentato esclusivamente su Nartra Radio Roma. Studia, testa, sperimentato. Rieccoci di nuovo dopo il fantastico pezzo di Totò Veneziano, studiato, testato, sperimentato. Vi ho fatto ascoltare contemporaneamente un altro brano di un altro artista, lui si chiama Schlock e viene direttamente da Roma. Il suo pezzo si chiamava Monte Mario e faceva parte di una compilation chiamata Roma Esterno Notte. Andate da Schlock sulla sua webpage e chiedete informazioni su questa città e lui ve lo farà scaricare. Comunque, siamo ancora su Narta Radio Roma, io sono DJ Cocot e qui da noi si ascolta solo musica libera che non avete mai udito, non avete mai visto, solo su Narta Radio Roma. Dopo che ci siamo fatti trasportare da Mr. Schlock tra le vie notturne di Roma con il suo Monte Mario, ci siamo fatti portare nel cosmo da Mr. Silent. Questo era il suo brano, Dream. Comunque voi siete ancora sul cosmo di Nantra Radio Roma e se volete scaricare i nostri podcast venite su www.nartraradioroma.blogspot.com e cercate di me, DJ Cocot, e del mio amico DJ Brontolo. Ed ora, per concludere, per voi della Sardegna, Anima di Legno. Questa è Lacrime di Cera ed io li adoro. Perciò buon ascolto e ci sentiamo alla fine. Solo ed esclusivamente su Nartra Radio Roma. Bene, bene, bene, bene, siamo arrivati alla fine, loro erano Anima di Legno e prima di ringraziare tutti quanti gli artisti che hanno partecipato a questo podcast, vi ricordo che noi stiamo su www.nartraradioroma.blogspot.com. Il jingle che sentite sotto la mia voce è di Cock McCola e si chiama Surf Electro Guitar Jingle. Era solo per ricordare che anche lui ha fatto parte di questo piccolo mini podcast. Comunque, Ora siete pronti ad andare sul nostro Blogspot e scaricarvi i nostri podcast, partendo da Podcast 0.0 fino all'infinito, solo su un'altra Radio Roma. Fermata.